Con questo titolo volevamo, diciamo, dare un duplice significato e prima di tutto confermare le radici che fondano la competenza e i saperi dei centri antiviolenza, gli esperti, le esperte appunto sulla violenza di genere e dall'altra parte la capacità di rispondere ai bisogni e alle necessità delle donne che subiscono violenza, che è il nostro lavoro appunto da oltre 30 anni. Quali sono i principali appuntamenti, insomma, previsti? Allora, quest'anno abbiamo quasi 70 eventi dal 25 novembre 10 dicembre, anche quest'anno alcuni iniziano da un po' prima del 25 novembre, già questo weekend abbiamo il consueto appuntamento con Confagricoltura, con le Clementine Antiviolenza. Ospiteremo quest'anno una opera collettiva di due artiste argentine, Silvia Levinson e Natalia Saurin, che arrivano dall'Argentina con un'opera appunto che si chiama Workout, allenamento per la distruzione del patriarcato. Inviteremo tutte e tutti domenica 24 novembre in via Indipendenza a dare pugni contro il patriarcato su un tappeto di frasi misogine.